Good morning everyone. Vuol dire buongiorno a tutti in inglese. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Spesso mi chiedo perché sto a raccontare i casi miei alla gente. Penso a quelli come me che stanno svegli la notte cercando le frasi per riuscire a parlar di sé, e non sanno fare nient'altro, non sanno fare niente, neanche le lavatrici. Hanno i maglioni sgualciti e non guardano neanche la televisione, tranne la notte degli Oscar e qualche film d'azione. Così ho invidiato la gente che vive a Milano e le forme di vita di un pianeta lontano, e chi ha perso tempo per capire il mondo e chi ha perso tutto per capirsi a fondo. Avrei voluto scoprire altri punti di vista e come stanno le cose e dove sei. Allora, Luca Carboni torna. Questa posso fare la lavatrice? Lavatrice? Parte del testo di questa canzone. Non particolarmente. Se solo non sanno fare niente, neanche la lavatrice, hanno i maglioni sgualciti, non guardano neanche la televisione sulla notte degli Oscar. Tornano i campionati. Dopo sì, grazie al buon Dio o a chi per lui, perché veramente non se ne poteva più. Sì, c'era un la, po' noia, la noia, la noia più bieca. Ed è tornato, meno male che ci sono arrivati i placebo, no, grande affetto per i nazionali, però l'abbiamo detto mille volte, sarebbe secondo me più giusto fare proprio degli slot che darebbero anche secondo me più entusiasmo, più interesse, sì, insomma. Pensa se alla fine di ogni stagione, la stagione finisce magari prima, a quel punto finisce a fine aprile, maggio e giugno, gli anni dispari, fosse dedicato alle nazionali con la possibilità di impostare il lavoro bene e praticamente di trasformare anche gli anni dispari in quel periodo lì in un momento invece di grande festa nazionale, perché insomma, ma anche di ascolti, di appeal, i numeri della nazionale sono impressionanti, però è l'interruzione del campionato. Oggi parleremo di cose interrotte, tra l'altro. Non volevo dirlo così, perché parleremo anche di Guardiola. Sai che Guardiola ha detto dopo mezzanotte... Dopo mezzanotte niente, solo dormire. Poi parliamo anche di questo. Lo ha svelato Nasri, uno degli epurati, peraltro da Guardiola al City. Io voglio salutare insieme a te un ascoltatore, un nuovo ascoltatore. Vi ascolto da 2 giorni e mi chiedo come, diciamo cavolo, ho fatto a vivere fino ad oggi senza di voi. Siamo al top. Grazie, però ci riusciresti anche se non ci ascoltassi. Anzi, senti, grandissimo, siamo al top. Derby di Milano 348-44, mi fermo. Sì. Derby di Milano 349-238-6666. Sì, certo. Derby di Milano, ma non solo in giro per l'Europa, perché ci sono grandi partite un po' ovunque. In Inghilterra, sabato all'1:30 di pomeriggio, Manchester United Arsenal, che ti porta alla mente qualche ricordo? Sì, bene, stiamo vedendo qua, c'era un Overmars, abbiamo pescato, sono delle immagini di una televisione satellitare, non mi ricordo come si chiamano, li salutiamo, gli amici di Sky, c'era qui Sky Sport 24 con un po' di immagini di qualche anno fa, il gol di Overmars. La cresta rossa di Ljungberg, un Anelka giovanissimo, e Nwankwo Kanu, eccetera. Tante belle cose, anche se, vabbè, io non c'ero, però il ricordo va soprattutto a Brady alla finale del 3-2, vabbè, ma ne parliamo dopo, dai. Poi c'è Borussia Dortmund, Bayern Monaco, sì, il tuo amico Carletto Ancelotti. No, non brutta. Il derby di Madrid sabato sera alle 20:45, mica male, al Vicente Calderón Atletico contro Real. Certo. E poi domenica sera 20:45 Milan Inter. Allora, qual è il derby che ti ricordi di più tra quelli di Milano? Una domanda che facciamo anche agli ascoltatori ed è una risposta che ha dato Moratti. Allora ti faccio sentire cosa ha detto Moratti. Facciamo l'hashtag il mio derby dei sogni, lo estendiamo già, il mio derby dei sogni, hashtag fate, scriveteci 800240024 oppure via messaggio 349-238-6666, ti so a memoria, un miracolo. E poi ovviamente anche su Twitter scatenatevi, non vale solo per Milano, il vostro derby dei sogni. Quello dei sogni di Moratti è questo. Il primo mi è piaciuto molto perché eravamo proprio sfavoriti, abbiamo vinto bene, una partita poi combattuta. E poi niente, bello quello di quando arrivò Snyder il giorno prima. Sono tanti, i derby sono tutti interessanti, tutti belli e tutti pieni di pathos, quindi lo sarà così anche quello di domenica. Pensi che sarà così anche quello di domenica? Sì. Io penso di sì. Guarda, è un bel derby, ti dico la verità, nel senso che è un derby che vive anche di problemi, no? Cioè il fatto che l'Inter sia andata male, ci sia l'allenatore nuovo, aggiunge sicuramente un po' di adrenalina. Mi sembra che ci sia nell'aria, poi forse anche la sosta aiuta, perché appunto questo crea questo senso di attesa ulteriore. Mi sembra che ci sia una grande partecipazione. Fra l'altro, io lo seguirò in 4K, che è questa nuova tecnologia. 4K, quindi sì. Chi ha il televisore in 4K ed è abbonato a Premium potrà vederlo. Quindi andrò allo stadio e sono gasatissimo dall'idea. Sono anche gasato da Udinese-Napoli sabato sera. L'ultimo Udinese-Napoli non è stato proprio banale. No, non è stato per nulla banale. C'è stata la partita. Esatto. Del crollo del Napoli. Che derby sarà quello di Milano? Risponde Cannavaro. Vincenzo è stato bravo perché a questo ambiente ha portato tranquillità. Sta facendo cose semplici, ha puntato sugli italiani. Sicuramente sarà un derby diverso dagli altri anni. Sarà un derby dove chi vince avrà una svolta, perché sia il Milan per i primi posti e l'Inter per venire fuori dalla sua situazione. Questa è l'opinione di Cannavaro. Facciamo un pronosticone subito. Vai, 1-1. 1-1? Sì. Ma facciamo anche delle altre tre grandi partite, però. United-Arsenal? Vince lo United largamente. No, vince... vince l'Arsenal. Vince l'Arsenal. Pura scaramanzia. Vince l'Arsenal, però. Vince l'Arsenal. Borussia Dortmund, Bayern Monaco, chi vince? Borussia Dortmund, Bayern Monaco, secondo me vince il Borussia Dortmund. Ah sì? Sì. Ah però. E Atletico Real? Atletico Real è su un partitazzo che come va a terminare vince, nessuno, vince pareggio. Real Madrid 1-0. Benissimo, questi pronostici per Luigi Pardo, adesso ci fermiamo per il traffico, poi aspettiamo molti ospiti, aspettiamo anche voi, 800240024. Tutti convocati. Con grande rispetto di Carlo Genta, che mi ha avvicinato alla radio come il Papa mi ha avvicinato alla Chiesa. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Tutti convocati. Come vedi dai messaggi, Pierluigi Pardo, molti sono milanisti, sono affezionati al famoso derby della Pietra di Etley. Che è diventato un'icona per il povero Collovati. Ho l'immagine proprio, pur avendo probabilmente 10 anni, quell'immagine lì che è entrata poi io nella c'ero. Storia, no? Una delle foto. Io c'era. E poi quello era un Milan povero, no? Era il Milan pre-Berlusconi. Erano due squadre non da... il Milan soprattutto. Soprattutto il Milan non d'altissima classifica. Era il Milan di Farina, degli Atli e dei Wilkins, del Paolo Rossi da... Due gol, peraltro, ti ricordi anche questa? Doppietta di Paolo Rossi, unici due gol che segnò con la maglia del Milan in un derby. Il derby dei sogni è quello fra il miglior Milan di Sacchi e l'Inter del triplete. Forse vincerebbe l'Inter di Mourinho. Voi che ne pensate? Non lo so. Sono contrario ai paragoni epocali, non lo so neanche io, ma io penso che vincerebbe il Milan di Sacchi e degli olandesi, che è stata una delle squadre storiche e rivoluzionarie degli ultimi anni. Come lo disegnerà Pioli secondo te? Cosa cambierà Pioli nell'Inter? Cosa potrebbe aver già cambiato? Io penso che forse è banale dirlo, ma porterà un po' di razionalità. Penso che bloccherà un pochino di più il centrocampo per proteggere il reparto difensivo e poi si affiderà al talento dei tre là davanti. Credo che farà, insomma, perché l'Inter ha ballato troppo in queste giornate. La difesa non è fenomenale, ma soprattutto non è stata protetta in mille occasioni. Quindi io mi aspetto una squadra un po' più sicuramente più organizzata, anche abbastanza prudente. Questa è l'idea che ho in testa. Mi sembra quella che, insomma, aderisca di più alla delicatezza del momento, perché chiaramente non è un esordio facile. E fra l'altro adesso l'Inter ha un pezzo di calendario piuttosto complicato, perché poi anche la Fiorentina, il Napoli, ha una serie di partite oggettivamente difficili e anche alle caratteristiche, alla filosofia di Pioli. Quindi mi aspetto una squadra piuttosto bloccata. Però vincendo potrebbe svoltare, potrebbe Vincere pure aspettando, anzi. Sì, c'è dubbio, ma potrebbe svoltare, potrebbe dare comunque un abbrivio diverso alla sua stagione fin qui totalmente deludente. Paolo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Chiamo da Milano, ma sono Granata, quindi per me il derby dei sogni è troppo facile sceglierlo, perché tre gol in 3 minuti e 40 secondi alla difesa campione del mondo è una roba che non si può dimenticare. E volevo chiedere a voi, che siete un parere molto autorevole, se quest'anno ce la possiamo fare al derby, ovviamente, di Torino. Guarda, il derby di Torino è sempre una brutta bestia. Il derby di Torino è una brutta bestia. Approfitto per dire, per carità, è pienamente legittimo che il derby in casa della Juve è un po' diventato un po' meno derby, perché col fatto che la Juve si è fatta questo stadio di proprietà, ripeto, legittimamente, perseguendo i propri interessi, e i tifosi del Torino sono esattamente come quelli del Chievo, quelli della Roma, cioè hanno gli stessi spazi e vengono inseriti in quel pezzettino di settore ospiti, e chiaramente lo Juventus Stadium, lo sappiamo, ha un altissimo tasso di riempimento, tantissimi abbonati, quindi non potrebbe essere fatto in maniera diversa. Devo dire, io ho fatto sia Juventus Torino che Torino Juventus e non c'è partita come atmosfera, nel senso che Toro-Juve è un derby veramente con una curva, o comunque un pezzo di curva con i tifosi della Juve. Juve-Torino, la percentuale di tifosi del Torino è molto bassa, quindi devo dire che è molto diversa come atmosfera. Il derby Genoa è una meraviglia, il derby quest'anno me ne faccio un sacco, sono molto, sì, ho deciso che ti dai ai derby, se mi do ai derby, cioè, hanno deciso e quindi no, adesso li facciamo, ne faccio tre uno dopo l'altro. Il Toro ha possibilità, sicuramente il Toro, ma ne ha avuto anche nelle ultime stagioni, ne ha avute le ultime stagioni per sfiga diverse devo volte. Dire la verità, adesso questa cosa accenderà una serie di improperi. Io non sono assolutamente complottista, non lo sono mai stato, e credo che gli errori arbitrali facciano parte delle circostanze, e molto spesso, per esempio, quando Zampini interviene e dice che quando la Juve ha dei torti arbitrali, non è vero. Uh-huh. Io penso che la Juve, per esempio, abbia avuto un torto arbitrale nella finale contro il Barcellona a Berlino, cioè quello è un rigore che si poteva dare, che poteva cambiare la storia di quella partita. Devo dire che lo scorso anno, dopo il famoso Toro-Juve, abbiamo fatto una carrellata di episodi. Il Toro veramente ha avuto una serie di episodi veramente incredibili, clamorosi. Io sono proprio un fedain al 100% della buona fede, quindi penso assolutamente a questo. Però sicuramente il Torino, al di là del fatto che certamente rispetto alla Juve è una squadra negli anni storicamente molto più debole, negli ultimi 20 anni è stata una squadra molto più debole, però sicuramente in tante circostanze, pensa a un derby giocato di pomeriggio con due gol della Juve alla fine, con un rigore negato abbastanza clamoroso, una partita che ha fatto la mia speranza in vista dell'11 è che possa essere veramente invece una partita di grande serenità dal punto di vista arbitrale, come merita ovviamente. È una sfida bellissima, perché devo dire la verità, poi chiaramente la sentono molto gli juventini di Torino, molto meno gli juventini del resto d'Italia, però è veramente una partita meravigliosa. Io saluto Marco Amelia, ex portiere del Milan, della Nazionale, portiere campione del mondo. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Marco Amelia, che, come ricordiamo, e ricordi tu perfettamente, Pierluigi Pardo, l'anno scorso venne richiamato dall'inattività. Perché? Perché Amelia? Perché? O Golero? O guardaredo? O portiere? Da Mourinho al Chelsea. Senti Marco, che impressione ti sei fatto di questo avvio di stagione così disastroso di Mourinho allo United? Ma dai, forse disastroso non è la parola giusta, difficile più che altro, perché comunque ha trovato delle difficoltà, ma come è normale che sia quando entri in un ambiente come quello del Manchester United, dove io lo vedo come un pollaio con tanti galli che vogliono comandare, e quindi ci sono personaggi storici che lì dentro, dall'ultimo allenatore, che da Ferguson a Bobby Charlton, o comunque anche a un grosso punto interrogativo che riguarda un po' la società con gli americani, una parte americana, una parte che non si capisce. Quindi le difficoltà il mister l'ha trovate soprattutto dal punto di vista gestionale, e quindi l'ambiente è poco sereno, i giocatori ne risentono, l'equilibrio di una squadra che deve trovare la formazione ideale, sono tutte piccole problematiche che per risolverle ci vogliono mesi, non giorni, ma mesi. Sì, quelli che ovviamente non sono stati concessi a De Boer. A proposito di derby di Milano, stavamo discutendo io e Pierluigi sul fatto che è un derby con molte cose dentro, no? Meglio il Milan, fin qui non c'è discussione, ma ci sarà il debutto di Pioli, ci sarà parecchia adrenalina in campo. Sì, assolutamente, perché torna un derby che vale tanto, non vale solo per la stracittadina su Milano, ma vale anche per la classifica, vale per il futuro anche dell'Inter, vale per tante situazioni. Di certo il Milan è avvantaggiato per la situazione tra virgolette serena, ma quando si parla di derby non ci sono mai favoriti. Pioli ha preso in mano la squadra da pochi giorni, quindi è un'incognita come la farà giocare, un'incognita soprattutto su che formazione farà, può cambiare tutto e niente, quindi sarà sicuramente un derby, che poi tra l'altro, sentendo un po' in giro, sarà un derby con uno stadio pieno, quindi sì. Con grande entusiasmo, e finalmente la Milano del calcio torna ad assaporare questo tipo di eventi. Qual è il tuo ricordo personale più nitido del Milan, Marco, della tua esperienza al Milan? Beh, nitido. Penso ai 4 anni di Milan, penso allo scudetto vinto l'anno dopo dell'Inter, quindi lo scucetto, come fu a Roma nel 2001. Esatto. Però ecco, di ricordi tanti, soprattutto perché abbiamo passato momenti belli ma anche momenti difficili. E quindi credo soprattutto terzo anno, a un momento iniziamo la stagione male e ne venimmo fuori, poi arrivando al terzo posto, quello forse è un momento che ancora più bello dello scudetto, perché eravamo partiti veramente male e siamo riusciti a risalire fino alla terza posizione, facemmo un grande girone di ritorno, quello me lo ricordo, quindi il ricordo più bello è quello. Senti, quanto è forte Donnarumma? E soprattutto da 1 a 10? Aggiungo, fossi in lui, se ne è parlato molto in questi giorni, staresti al Milan o andresti in un'altra grande europea? Rispondi prima da 1 a 10. Allora, da 1 a 10 Donnarumma quanto è forte? Allora, se mettiamo da parte l'età, tutto quello che vuoi, in questo momento è tra i migliori, quindi da 1 a 10 è molto vicino al 10, perché poi l'ho visto 2 anni fa, era veramente un bambino ma sembrava un adulto già, quindi è fortissimo, che ha grande forza caratteriale oltre che le doti fisiche e tecniche. La forza caratteriale ti permette di stare nei pali del Milan in un club così importante, e quello fa la differenza, quindi è molto vicino al 10. Sono contento soprattutto perché è un ragazzo eccezionale, e oggi trovarne di giocatori che hanno questo tipo di carattere, perché lui è un ragazzo che pensa poco all'immagine, diciamo, no? Come ha detto, a orecchini, tatuaggi, queste cose che sono stupidaggini, e io la penso uguale, e oggi invece magari i giovani della sua età pensano soprattutto a farsi vedere, a fare belli, sopracciglia, capelli fighi. Cioè io, a lui l'ho visto giocare spettinato, cioè, quindi è un ragazzo è un segno veramente determinante. Sì, anche se c'è uno che si chiama Cristiano Ronaldo che ha le sopracciglia più perfette del mondo, gioca benissimo. Quando ha iniziato a giocare Cristiano i capelli ce l'aveva scombinati, era bruttino. Prendiamo qualche foto del passato, è da rivedere, poi è normale col tempo ti curi, stai attento, e Gigi in questo momento sta pensando soprattutto a prendere la strada giusta, e l'ha trovata, e credo che continuerà così perché è un ragazzo veramente a modo. Ma al Milan secondo te? perché ovviamente è uno dei giocatori più ricercati al mondo in questo momento. Ma secondo me resta il Milan, perché? Perché il Milan sta cambiando, sta crescendo e tornerà ad essere tra i migliori club italiani ed europei, quindi credo che anche lo stesso Milan, per una questione di immagine propria, non possa cedere un giocatore come Gigio, quindi anzi ci deve creare intorno un insieme di altri giocatori che possano poi essere determinanti e diventare importanti anche per la tifoseria, perché il senso dell'appartenenza del Milan è forte anche per la tifoseria, quindi Gigio sarà, lo vedo tuttora e anche pensando a un futuro con la maglia del Milan. Beh, io penso che questa sia una chiave molto importante, nel senso che una nuova società che viene, che deve presentarsi col vestito di gala agli occhi dei tifosi, non può permettersi, e Donnarumma oggi è questo portiere qui, è questo giocatore qui, è questo simbolo qui, quindi da questo punto di vista non vedo enormi discussioni, insomma credo che sia abbastanza evidente. Poi è chiaro che le vie di Raiola sono infinite, no? È ovvio che se lui decide che ti vuole far cambiare va bene, ma poi a quel punto Gigio ha anche una famiglia alle spalle con grande forza caratteriale, cioè lì i procuratori possono intervenire tanto, ma non penso che tu non ce l'avevi Raiola lì allo Sheraton. No, vabbè, sa lavorare molto bene da questo punto di vista, però sa anche che una situazione come quella di Ibrahimovic è diversa da una situazione come quella di Donnarumma. Cioè Donnarumma è cresciuto qui nel Milan, è un giocatore a cui la gente si affeziona, Ibra è un giocatore che è un prezzo pregiato che lo puoi spostare da una piazza importante ad un'altra senza problemi, Donnarumma a questo momento non lo puoi spostare, ma l'unica situazione in cui uno può pensare di vendere Donnarumma è che il club sia in difficoltà economiche, certo, e quindi chiaro, magari può tirar fuori i soldi da questa situazione, ma in questo momento il club sta ripartendo, tra l'altro anche con le spalle ben coperte, quindi Donnarumma sarà un pilastro del Milan per i prossimi anni. E poi gioca spettinato. E poi gioca spettinato. Vivere spettinati è un concetto quasi filosofico. Ci vediamo spettinatissimi lunedì sera, Marco. Ciao Marco. A Tiki-Taka. Sì. Ah, lunedì a Tiki-Taka. Sì, vengo molto volentieri, sai che anzi vengo proprio diretto su a Milano, quindi tu chiami, quando arrivi chiama. Sì. No, è un piacere perché, dai, sì. Grazie Marco, grazie Marco Amelia. Allora, ciao. Adesso ci fermiamo per la borsa e poi diventiamo un po' piccanti. Poi c'è la parte sex, sì. Anche astinenza. Poi c'è Claudio La Macerata, tantissime altre sorprese. Continuate a scriverci il mio derby del cuore, giusto? Hashtag De Luca. Hashtag. Che c'hai De Luca? Oggi sei un po' che sei preoccupato per le borse. Come vanno le borse? Lo scopriamo adesso. Borse. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Tutti convocati. Luigi, prima di tuffarci su un tema piccante, molto piccante, c'è Claudio da Macerata che aspetta da una vita. Da una vita, sì. Claudio, buongiorno, grazie. Buongiorno ragazzi, complimenti per la serietà anche della trasmissione. Grazie. Dunque, io vorrei parlare non di un aspetto romantico sportivo, ma di un aspetto finanziario al quale anche per lavoro, diciamo, ci sto dietro da diverso tempo. Io l'ho chiamato Operazione Mandrake. Sì. Senza fare nome e cognomi, diciamo che c'è un vecchio presidente che ha anche un trascorso politico, con, nessuno ha capito di chi si tratta. Con 300 milioni di debito per la squadra, giusto? Ecco, e si è stufato di cacciare anche 50 milioni, 60 milioni all'anno per la squadra. Questo signore, diciamo che all'estero c'ha moltissimi soldi, e per cui è difficile giustificare questi soldi con rientro in Italia. Dovrebbe dimostrare come li ha guadagnati, naturalmente con operazioni illecite, oltre al fatto che ne perderebbe il 35% diciamo istantaneamente. Sì. Claudio, questa no, ma la, questa io... è, no, l'abbiamo già, questa illazione non è che si, cioè, se lei sa qualcosa vada e denunci. No, io capisco benissimo che uno può avere tutti i sospetti del mondo e può pensare, questo è uno dei più diffusi, a scenari di questo tipo, però ecco, se penso che ci sia pieno di magistrati che fanno un lavoro importante, delicato, difficile e anche faticoso, se lei sa qualcosa in questo senso vada e denunci. Non è che si può, questo qui è una radio nella quale non è che uno può dire, cioè, uno che ha fatto soldi in maniera illecita deve riportarli in Italia, e quindi, cioè, no, non lo so, per carità, dica lei. Pronto? Voglio dire, sì. Allora, voi che ne pensate di una società creata apposta in Cina, dove è impossibile che neanche 007 ce la fa a sapere chi è i proprietari? Va bene, creata apposta per ricomprare il Milan. Beh, ma adesso ecco, lo scopriamo, non pensiamo moltissimo. Per riportare, cioè, soldi da attività illecite, mi sembra, capisce, che cosa ne possiamo pensare? Adesso, fosse così, penso che sarebbe stato già da mo' raggiunto un accordo con qualcun altro. Invece è una cosa estremamente difficile, è slittata ancora, il closing era previsto proprio per il derby, non ci sarà, ci sarà da attendere fino a dicembre, e tant'è. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi risparmio i complimenti, tanto siete grandissimi, lo sapete. La domanda è questa, mi riallaccio un attimino al derby, che secondo me sì, sarà bello vederlo per chi farà meno peggio, diciamo. La mia domanda è, secondo voi quanto manca e quanto potrebbe far bene la famosa Superlega, dove finalmente potremo vedere partite interessanti senza risultati scontati, senza campionati scontati, perché togliendo quello inglese il resto sappiamo quali sono le squadre. Insomma, è bello parlare del derby, però sappiamo che chi si incontra Milan e Inter, che mal che ben che vada, una arriva a quarta, tre arriva a quinta, o se non peggio. Sì, Superlega. Beh, c'è ottimismo, insomma. No, io penso invece che Milan e Inter possano provare ad arrivare tra le prime tre. È chiaro che la Champions con tre squadre, di cui soltanto le prime due qualificate in maniera automatica, insomma, ha tolto un po' di forza al nostro calcio, e quindi un po' di motivazione. Questo è evidente, perché i posti sono pochi. Per detto questo, insomma, se non ci crede il Milan oggi con la situazione di classifica che ha, ma chi ci deve credere? E no, secondo me può crederci ancora anche l'Inter. L'argomento Superlega rimane caldo. Io quest'anno, ad esempio, sto seguendo l'Eurolega, per come è strutturata, è un vero campionato europeo, sì, sono due volte a settimana, qualcosa di massacrante, ma anche di bellissimo, e sono squadre che nei rispettivi campionati vincono. Ma guarda, io credo una cosa, che la svolta di Platini degli ultimi anni, quella di cambiare la formula e di assicurare più posti alle federazioni meno importanti, non abbia funzionato. Lo diciamo da qui, perché chiaramente ci conviene dirlo, però è vero che, insomma, con tutto rispetto per il Bade Borisov o per il Lech Poznan o il Legia Varsavia, insomma, l'idea che non ci sia una quarta squadra italiana, l'idea che non ci sia, anzi, neanche una terza purtroppo in molti casi, ma questo vale ovviamente anche per le francesi, insomma. È evidente che ci sia una sproporzione, che la logica di oggi della Champions League risponde a un criterio misto che in parte tiene conto degli aspetti economici, ma in parte soprattutto tiene conto degli aspetti geopolitici. Certo, certo. Io penso che in futuro ci siano delle idee, le abbiamo letto da qualche parte, insomma, c'è la possibilità di fare un campionato che metta in, non so, le prime sei dei campionati più importanti, un vero e proprio campionato europeo. Certo. E penso che alla fine, anche se il calcio vive di tradizione, alla fine ci abitueremmo volentieri nel vedere, non magari faremmo tanta fatica un Fiorentina Barcellona, certo, nel vedere più partite di questo tipo. Allora ci fermiamo un attimo per il traffico e poi abbiamo un ospite in linea. Tutti convocati, siamo al top, ragazzi, siamo al top. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, saluto uno dei re di Ibiza, Luciano Marangon, ex campione d'Italia. Buongiorno. Come? Sei ancora lì, no? Buongiorno. Sì, sì, sì, sto da Dio. Nessuno ha qualche dubbio. Io adesso, noi guardiamo fuori dalla finestra la grigia Milano e io e Pardo ti invidiamo. No, io in questo momento mi trovo a Milano perché sono tornato in Italia una settimana per salutare i miei figli, gli amici, eccetera eccetera, però sì, dura vita, dura vita. Tra qualche giorno prendi l'aereo di quindi ritorno. Sono nella grigia Milano. Sei nella grigia Milano. Allora, Nasri, avrai letto, no? Uno degli epurati di Guardiola, che ha rivelato in questa intervista: ci proibì di fare sesso dopo la mezzanotte, dopo quell'ora dovevamo dormire, disse che l'aveva imposto anche a Messi. Il pensiero di Guardiola riguardo al sesso è indicativo: chi vuole avere un rapporto sessuale deve farlo prima di mezzanotte perché aiuta a dormire bene. Mi ha detto di averlo consigliato appunto anche a Messi, da lì in poi non si infortunò più a livello muscolare, pensa un po', eppure con Lewandowski a un certo punto l'ha messo in panchina per farglielo capire. Ma Osvaldo Bagnoli che diceva? No, io non ho mai avuto allenatori. Chiaramente un allenatore ti indica dei comportamenti da fare e da tenere, cercando di che ti impongono un certo tipo di regole. No, io non li ho mai avuti. Poi se Guardiola lo fa, non lo so. Tu saresti stato un disubbidiente a questo livello, professionale, con professionisti così, a quel livello un allenatore sì, lo può fare a livello di battuta, ma no a livello di elenco regole di comportamento da fare, cioè non ci credo, ecco. Non ci credi? Poi, no, anche perché poi uno non lo può fare dopo mezzanotte, ma prima lo può fare in un modo così violento, così forte, che comunque ti stanca uguale. Quindi io ho letto la tua intervista che lo facevi anche la domenica mattina, che era il tuo doping. A me è capitato, sì. Non io credo sia solo un problema di testa più che di fisico, perché quando hai 20 anni, sei allenato tutti i giorni a correre, a far fatica, non credo che sia un momento di sesso che ti può influire negativamente sui tuoi muscoli. È solo un fatto di testa, ecco. Senti, Lellas ce la fa con o senza sesso? Adesso c'è stata questa brutta... Ma non lo so, adesso io seguo, perché anche dalla Spagna seguo abbastanza con Sky il campionato italiano e anche quello di B, e chiaramente l'Hellas, sì, non c'è una qualità così elevata, e credo che al di là della sconfitta, l'ultima sconfitta con Novara, che può succedere durante l'arco di un campionato, sia una squadra che può arrivare sicuramente a salire di nuovo in Serie A, e poi anche perché l'ambiente, la città lo merita. Assolutamente. Senti, invece sai che Formentera c'è questa storia bellissima, lo so che tu sei ibisenco, però insomma penso che non ci sia rivalità col Formentera, no? Che adesso gioca il 16° di finale Coppa del Re col Siviglia. Ho vissuto 25 anni in Formentera, quindi ecco. È un posto che amo. A livello calcistico il Formentera sta andando anche abbastanza bene. Però sentivo prima il discorso che facevate sugli interessi di campionati, campionato un campionato europeo, eccetera eccetera. Io credo che in Italia si debba dare molta più importanza al campionato principale, a quello di Serie A, come fanno negli altri paesi. Io vivo in Spagna, ma non sento parlare della seconda categoria, cioè della Serie B. A livello televisivo, a livello di stampa, ne parlano praticamente zero. Uh-huh. Zero, non interessano, parlano solo del campionato della Liga, cioè del campionato di Serie A, punto. Cioè le squadre che hanno merito di arrivare a un certo livello vengono poi, quelle dietro sono praticamente considerate nulla, campionati dilettantistici, certo. che che vanno bene per i propri quattro tifosi che hanno nella loro città o nei loro paesi. Senti. Quindi bisognerebbe fare come fanno negli altri paesi, Inghilterra, Germania, Spagna, che si parla solo della prima serie. Beh, cioè insomma, della Serie A. Poi qualcuno si offende magari anche a Verona, Luciano. Senti. Ah, vabbè, ma si possono offendere quanto vogliono, se hanno la capacità di arrivare a un certo livello, è giusto poi che abbiano la riconoscenza sia a livello stampa, televisione, sia a livello economico, ma se no non è mica vero. Rimangono la storia. Ma c'è Massimo da Verona, c'è Massimo da Verona che secondo me vorrà salutare il professor Marangon. Massimo, eccolo. Sì, buongiorno. Chiamo la totale, quindi se la telefonata è abbastanza disturbata, scusa. Sono un tifoso interista e quindi mi sto approcciando al derby con molta delicatezza, in quanto ho ancora in mente l'Inter del 2010 con dei nomi in squadra che penso ci vorranno anni per rivedere. Però paradossalmente volevo parlare del Milan, ovvero secondo me Montella sta facendo un lavoro incredibile, lanciando giovani e soprattutto italiani che altrimenti sarebbero stati fuori squadra. E quindi mi viene da chiedere quanto il fatto che il Milan abbia avuto il mercato bloccato in merito a questo cambio di società abbia costretto Montella a lanciare dei giovani, lanciarli bene e farli emergere, tanto che anche la nazionale ne sta traendo beneficio. Non ne aveva, sarà che non ne aveva altri, insomma, ha fatto un eccellente lavoro con quello che gli era rimasto a disposizione Vincenzo Montella. Poi è l'allenatore, fino a qui è probabilmente insieme a Gasperini l'allenatore dell'anno, no Pardo? Direi senza alcun dubbio, no, ma soprattutto perché secondo me Montella ha avuto il merito di adattarsi alla storia del Milan, alla filosofia di calcio del Milan. Non ci è voluto molto, secondo me. Erano anni che, quando tutte le volte si parlava di una possibilità di Montella al Milan, dicevamo sempre la stessa cosa, cioè che era adatto, è fit, no? È tecnicamente fit per quel tipo di incarico. Così come probabilmente Mihajlovic non lo era tantissimo, e invece al Torino, dove c'è bisogno di un allenatore di grande motivazione, coi giovani, dove l'elemento della combattività, dell'agonismo di una squadra, che fra l'altro ha anche dei valori tecnici molto importanti, però tutto questo viene apprezzato, rientra in quella sana retorica granata, e Mihajlovic sta facendo benissimo. Certo, infatti è il terzo in lizza per la panchina d'oro. Luciano Marangon, prima di salutarti, chi è stato il re dell'estate? Sì. Esatto. Il re dell'estate in che senso? A livello di sportivi, di giocatori? Beh, sì, Bobo ha fatto questi video, tu li vedesi, beach tennis. Sì, no, tutto il calcio europeo e non solo viene, passa le vacanze in quest'isola meravigliosa e quindi è difficile, però si riposano. Direi che qui i re sono considerati e vengono chiacchierati, sono i DJ famosi nel mondo che tirano fuori la loro nuova musica e quindi la nuova tendenza. Quindi eccetera. DJ battono calciatori 2-0. Sì, ai Ibiza sì. Grazie, 30 Luciano. Novembre Formentera Siviglia, sedicesimi di Coppa del Re, andiamo tutti a vederla, andiamo. Posso andare a fare l'inviato? Andiamo a trovare Marangon, abbiamo il GR, sì, e poi torniamo però abbiamo tantissima altra roba in arrivo. Certo. Tutti convocati, vado a giocare, ci vediamo dopo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Namo, let's go! Tutti convocati. Mi alta con un sentiamo anche in musica. Io e Pierluigi Pardo, le grandi partite di europee di questo weekend, non solo il derby di Milano. 800024 0024 349 238 6666, il mio derby del cuore, eh? Continuate a scriverci il vostro derby del cuore, la partita che non dimenticherete mai, la stracittadina, come dicevano una volta. Quelle espressioni lì proprio. Secondo te quello, il derby del cuore di Filippo Maria Ricci, qual è? Bueno, ammesso che abbia un cuore. Sì, bueno, la storta Isola Farnese. E ovviamente noi siamo tutti per la storta? Perché io ho giocato tutte e due le squadre. Addirittura. River. Addirittura. Il mio era Roma Nord sulla Cassia. Sì. Il mio era grande Stella derby, Azzurra Master, se parliamo di sport praticato. Stella Azzurra Master. L'altro giorno ho beccato il mio ex compagno di basket, che saluto, Andrea Vietri, che adesso sta aprendo ristoranti, ma è un marangon di no altri. E ci siamo ricordati di un derby perso contro la Stella Azzurra all'ultimo secondo di uno. È una cosa che veramente è ancora a distanza di... Chissà tu quanti derby hai giocato, gente? Parecchi. La partita in questione era? No, Pavia Vigevano. Era il classico. Il classico del 45esimo parallelo. Il classico del 45esimo parallelo, odio assoluto tra le. E tu ti fai, cioè tu giocavi nel Pavia? Tutte e due. A tutte e due? Quindi, anche tu! Quindi core in grado! Core in grado! Che schifo, dai. Siete dei mercenari. Io la Stella Azzurra non sarei mai andato, soprattutto non mi volevano. Mercenario totale, Filippo. 10.000 lire al punto valeva da noi al tempo. Si giocava così, 10.000 lire al punto. Stupendo. Buono. C'erano i tre punti? No. Senti, ma tu vai a trovare Marangona. C'erano manco tre punti. Grande Bardo, questo non ci avevo pensato. Esatto. Spiga. Ma tu vai a trovare Marangona e Ibiza qualche volta o no? Sei stato? No, Ibiza sono stato, però vado una volta all'anno di solito. Però Marangon non l'ho mai vado a trovare, che ti diverte. Abbiamo sentito prima. Di che ti mandiamo noi? Senti, Pardo ha già fatto il pronostico per Atletico Real Madrid e dice 2 in schedina. Wow! Sì. Dice 1-0 Real. Allora, intanto, se è così, l'Atletico, cioè il Real Madrid in Liga almeno non vince un derby da 3 anni, quindi già sarebbe un successo. 4 sconfitte e 2 pareggi in Liga, e lasciamo stare la Champions, che ovviamente è un'altra storia. E poi con tutti questi assenti è complicato, e giusto l'ultima considerazione, se così fosse l'Atletico Madrid andrebbe a 9 punti dal Real Madrid, quindi addio alla Liga già a metà novembre. Però ti dico, la cosa più importante sono gli assenti, che non è ancora chiarissimo. Se volete Morata, faccio un bollettino rapido. Sì, Morata e Cross, sì, che erano i due più in forma, anche se Morata non è un titolare, però probabilmente lo sarebbe stato perché Benzema è acciaccatissimo, fino non si sta neanche allenando ancora con la squadra. Poi abbiamo in dubbio Casemiro, che è fondamentale, che non gioca da 2 mesi, vediamo se rientra. E poi ci sono anche Pepe e Ramos, per cui fare un derby al Calderon magari con Nacho e Varane non è proprio il massimo, e senza Casemiro per il momento il centrocampo sono Modric, Kovacic e Isco, insomma, contatti al Calderon, dove fa, no? L'atmosfera è sempre calda. Ultimo derby di Liga al Calderon, tra le altre cose. Beh, diciamo che vuoi rivedere il pronostico? Sto 0-1 così era. Dopo queste informazioni, fra l'altro, cioè, in realtà già le sapevo in buona parte, al di là del discorso di Casemiro, che consideravo scontato invece, ma ha detto 0-1 e che il culo sia con me, che te non si cambia, e non si cambia, e si gioca anche il derby qua a Milano, come ben sai, Ricci. Quello, no. un tempo io lo seguivo con passione, visto che ero dell'Inter, o non so adesso cosa sono, però insomma, essendo mio padre di Milano, mi aveva attaccato questa. Famiglia internazionale, famiglia Ricci internazionale, esatto, modenese, milanese. Sì, no, reggiano, scusa. Teste quadre. Allora, salutiamo gli amici di Reggio, spero che vinca l'Inter, così, perché si tira un po' su, però la vedo complicata. Mi sembra che il Milan sia decisamente più squadra e sia più tranquillo e abbia più tante cose positive in più, però non lo so, io mi concentrerò qua, andrò al Calderon, e così, e sul Manzanar penserò alla mia vecchia passione nerazzurra, cercando di concentrarmi su Ma tanto il giorno dopo, quindi fai tempo a vederli tutte e due. Sì, certo, quello d'accordo. Però senti, invece c'è Messi che torna dall'Argentina tra fischi e applausi dopo due partite strane, direi quasi opposte. Ha parlato per due minuti, poi l'avete visto? Sì. Due minuti col microfono in mano, sì. Non è esattamente Marco Mix. È proprio il record di durata di una dichiarazione. Non ha la stessa, diciamo, verve di Luther King, magari, però, ha parlato per due minuti, ha detto delle cose che sono anche sensate, ma soprattutto però la cosa, alla fine, è bello vederlo parlare un po', no, col microfono dopo, e poi quando parla in campo, cioè quella partita che ha fatto, forse la miglior partita che ha fatto con l'Argentina, non lo so, insomma, adesso vado un po' così una delle migliori, sicuramente, una partita spettacolare, cioè voglio dire, è nel momento del grande bisogno, perché l'Argentina è chiaro che tutti sappiamo che arriverà al mondiale, no, in un modo o nell'altro, non ho mai visto l'Argentina fuori, perché comunque la classifica è talmente corta che secondo me ci arriva, c'è sempre, anche in ogni caso, però serviva una partita da leader e l'ha fatta, il gol, la punizione, gli assist, e poi anche questo essere leader fuori. Per me torna un Messi in grande spolvero. Sì. Poi abbiamo il classico qui tra poco, il 3 dicembre. Certo. Quindi torna invece un Higuain intristitissimo. Mamma mia, sì, questa dimensione internazionale continua a essere complicata per Higuain. Vediamo cosa succede a Siviglia, no? Cioè, Siviglia è una partita chiave per la Juventus martedì, e lì, no, se uno ha comprato un giocatore spendendo quella cifra, è perché risolva questo tipo di partite, soprattutto in Europa. Voi vorreste essere Ibra, cioè giocare in una nazionale di medio livello con la certezza del posto fisso, però chiaramente anche con l'aspetto negativo che difficilmente vincerai qualcosa a livello europeo e mondiale. No, tu vorresti essere... No, io vorrei sempre giocare in una grande nazionale, perché sì, sennò sì, come il grande... come George Weah, che alla fine faceva tutto per la sua Liberia, esatto. Meglio giocarsi, però il problema è chiaro che se ti toglie il posto Pratto, c'è, ecco, un problema. Se ti toglie il posto Pratto la Liberia, allora io credo di aver fatto, adesso vado a vedere l'esordio di Pratto in Serie A, perché io secondo me ho fatto la telecronaca dell'esordio di Pratto in Serie A, davvero? Sì. Mentre controlli, magari hai detto una frase e questo arriverà lontano. Esatto. La riascolteremo. L'avrò detto. Io ti giro. Detto molto meglio di Higuain, non scherziamo. Io per salutarti, Filippo, ti giro questa. Stiamo chiedendo il derby della vita, il derby del cuore, il derby dei sogni agli ascoltatori. E c'è Dario che mi scrive che il derby più bello è quello che facciamo io e i miei fratelli per l'ultima fetta di tiramisù. Questo non è male. Giusto. Anch'io io sono una famiglia numerosa, però ero l'ultimo, il più popolato, quindi la fetta di tiramisù me la mangiavo io. Te la mangiavi tu di diritto. Esatto, perché ero il più piccolo e quindi andava così. E quindi toccava. Grazie Phil. Ciao. A presto. Ciao. 800 24 0024. Continuate a raccontarci il mio derby del cuore. Abbiamo anche gli ascoltatori. Roberto, provincia di Treviso. Roberto. A noi Pratto ha fatto gol, scrive Paolo da Bologna. Peraltro. Buonasera. Io sono Juventino, quindi il derby Milan-Inter mi interessa, mi entusiasma poco. Sì. Volevo approfittare di Pardo per fare una domanda su Antonio Cassano. Prego. Perché non capisco perché in un calcio, in un campionato come il nostro, dove il livello qualitativo purtroppo non è elevatissimo, non riesco a capire come uno come Cassano non trovi posto nel suo parte. Sì, non lo capisco neanch'io, però credo anche che, ne parlavamo l'altro giorno, che comunque un po' di responsabilità sia anche sua, nel senso che se lui, diciamocelo apertamente, se lui volesse giocare ancora per 2-3 anni in Italia... potrebbe riuscirci secondo me abbastanza facilmente, nel senso che chiaramente ha dei piedi di enorme qualità, è integro fisicamente, però questo significherebbe dover accettare dei compromessi, dover quindi magari cambiare società. La situazione con la Samp non era ricucibile, e lui ha provato comunque, invece ha sperato, si è forse illuso che poi con il passare dei giorni la situazione sarebbe migliorata, e questo non è successo, quindi essenzialmente è una sua scelta, secondo me, nel senso che se lui, secondo me, se ha voglia di regalarsi altri due anni di calcio anche in Serie A, secondo me ha la possibilità di farlo, però magari deve accettare delle soluzioni, delle destinazioni, delle situazioni non eccezionali. Palermo c'era, questo adesso sto svelando una notizia, la possibilità di andare a Palermo in agosto c'è stata, e probabilmente lui sperava che le cose andassero diversamente alla Sampdoria. Anzi, sicuramente pensava, poi insomma, posso anche raccontare che l'altra sera ho trovato Zenga che credo stia ripartendo, forse è già ripartito per Dubai, adesso Antonio è a Dubai per 2 o 3 giorni, alla fine sono scambiati i numeri, quindi poi alla fine tante situazioni e tanti problemi anche recenti si rimarginano. Però è chiaro che se ti manca quell'elemento di ambizione, del metterti in discussione, del dare tutto eccetera, poi alla fine è difficile andare lontano, anche se sono d'accordo sul fatto che tecnicamente ci mancherebbe altro, avrebbe ancora pienamente posto. C'è il derby Catania-Atletico-Catania degli anni 90, ci scrive Mimmo, sì. Brasile-Argentina sarebbe il derby al Sud America sicuramente, finali però di Coppa del Mondo sicuramente non ci sono state. Andiamo col prossimo ascoltatore che prima ti leggo questo messaggio, però ma bello, siamo sicuri che è proprio bella cosa. Alessandro d'Alessandria fa bello, però dicevi c'è chi scrive: ma siamo sicuri che Higuain sia superiore a Morata? Sì, siamo sicuri. Siamo sicuri. Morata è un prospetto di giocatore ovviamente più giovane, con dei margini di crescita importanti e con una capacità secondo me anche di partecipare in certi momenti anche forse superiore a quella di Higuain, però se parliamo dell'attaccante non c'è partita, non c'è discussione secondo me. Alessandro d'Alessandria, eccolo qua. Eccomi, e mia figlia si chiama Alessandra. Alessandra, cambiate città. Volevo entrare in merito alle parole di Marrancò e dissento da quello che ha detto. Perché la Serie B e addirittura anche la Serie C, perché ci sono dei gironi con Parma, Venezia, Reggiana, Alessandria, Lecce, è un campionato bellissimo, sia la B molto che la C. Bello, sì. Non si può dire che è un campionato minore, che ci sono solo i pochi tifosi del posto, muovono migliaia e migliaia di persone, anzi è un campionato che Sky sta valorizzando e mi auguro che valorizzino anche la Lega Pro, la vecchia Serie C, che anche quello è un campionato bellissimo e che muove veramente migliaia e migliaia di appassionati. No, la Lega Pro che in Spagna è così. Insomma, che in Spagna è così, non credo che avesse niente contro la Serie B, anche perché poi tra l'altro la sua squadra, penso del cuore, che rimane l'Hellas, gioca in questo momento in Serie B, quindi figuriamoci se c'era questo tipo di intento. Riccardo Gentile, come aspetta, va? Aspetta, facciamo sentire anche lui una canzone. Il Placebo? No. No, non il Placebo, qualcosa di tedesco. Ok. Qui roba dura, andiamo sul duro, si picchia per la pagina tedesca. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Ciao. Come va? Sì, si ero De Blasibo l'altra sera, piaciuto? Bello. Sempre bello. Sempre. 20 anni, grandissima qualità. Invecchia pure Brian Molko, c'è speranza per lei. Non ho capito se c'eri o no. C'ero. Eri presente? Ero presente, sì. A saperlo. Sì, ma sono arrivato all'ultimo momento, dopo. Come al solito. Sempre. Dov'è la novità? Chi è favorito fra Dortmund und Bayern München? Qui hai giocato l'uno, ti ricordo. Ho giocato l'uno, vuol dire che mandava di cazzeggiare, sì, prego. Sì, non mi sorprenderebbe l'uno, perché Borussia, secondo me, deve un po' reagire a quello che è stato una via di stagione deludente, per quello almeno che mi aspettavo io, ma un po' tutti, perché l'attesa era questa sfida tra Ancelotti, quindi le certezze, il palmarès e il nuovo calcio che propone Tuchel, insomma la squadra costruita secondo me bene, e invece qui insomma le prime pagine se le prende giustamente il Red Bull Lipsia, che è a pari del Bayern, e anche l'Hoffenheim, direi, no? Un allenatore che ha 29 anni e che assieme all'Erta è subito sotto, insomma il Borussia, se finisse oggi il campionato, sarebbe fuori dalla Champions, sarebbe clamoroso. Quindi serve a quel gruppo una grande vittoria contro un grande avversario. Che impressione ti ha fatto Pierluigi Ancelotti, che è stato il tuo ospite di Tic-Tac l'altro giorno? È sereno, tranquillo? Qualche ma sai, lui è sereno sempre, pure sereno nei, momenti sempre. Nei rari momenti di bufera della sua carriera, nei rari momenti in cui i risultati non arrivavano. Io credo che una delle, forse proprio la forza principale, al di là di tutto, al di là delle conoscenze tattiche, perché chiaramente stiamo parlando di un grande allenatore dal punto di vista della preparazione, dei metodi, dell'aggiornamento, della tattica, ma io credo che la grande forza di Carlo Ancelotti sia proprio la, è fatto anche il libro, no? Sulla sua leadership calma, cioè la capacità in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione di supportare le critiche senza nessun problema. E questo è tanta roba, come diciamo noi giovani. Al Bayern credo che, credo, non lo so Riccardo, che sì, indubbiamente adesso nelle ultime partite c'è stato un po' un calo, ma la sensazione è che il Bayern sia ancora nettamente favorito, cioè mi sembra ancora un tipo di scenario assolutamente tranquillo, e l'obiettivo credo sia la Champions. Normalmente il campionato tedesco finisce a marzo, sì. anche matematicamente. Che sia ancora nettamente favorito, sì, sono d'accordo, è chiaro che poi inevitabile in Germania il paragone con chi c'era prima, ma insomma... giornalisticamente è un esercizio corretto, lo farebbero tutti, sai, di questi tempi la scorsa stagione Guardiola ne aveva vinto 10 su 10 in campionato, mentre qui analizziamo 7 vittorie e 3 pareggi, che a guardarlo è comunque un rullino di marcia assolutamente rispettabile, se non fosse che il Red Bull Lipsia neopromosso abbia gli stessi punti. È chiaro che il Bayern è favorito ed è chiaro, altrettanto chiaro, che la vera necessità da quelle parti è cercare di andare quantomeno oltre le semifinali di Champions, perché in 3 anni Guardiola si è sempre fermato alla semifinale, insomma. Ancelotti, che è uno specialista direi della competizione, esatto, potrebbe garantire qualcosa in più. E paradossalmente il fatto che non abbia fatto 10 vittorie potrebbe anche essere un buon indizio, nel senso che, premesso che poi comunque chiaramente la Champions, lo sappiamo, si basa su degli episodi, su anche delle botte di fortuna o di sfortuna, o su delle situazioni che ti possono capitare nella partita secca o nei 180 minuti, è così, soprattutto a quei livelli. Però io credo che Ancelotti sia uno che non ha l'ossessione del record, non ha l'ossessione della perfezione, è uno da questo punto di vista un po' più morbido, un po' più Allegri e un po' meno Conte, secondo me, sì, come tipo di approccio, no? È anche uno di quelli che tutto sommato, quindi non, io penso che lui stia gestendo la situazione, poi è sì, ovvio, esatto, che... No, ma infatti stavo, mentre parlavi, pensando proprio a questa cosa, che le stagioni del Bayern di Guardiola sono tutte molto simili, partenze incredibili, record, proprio per riprendere il discorso che facevi tu, poi però da marzo in poi si ritrovava una squadra molto spesso diciamo così falcidiata da infortuni assolutamente decisivi, poi in partite di Champions molto importanti. Sì, a marzo aveva già vinto il campionato, però poi si ritrova a giocare la Champions con una squadra a metà. Ecco, probabilmente Ancelotti avrà pensato, vista la sua esperienza, anche a questo, no? A cercare di dosare le forze inizialmente per poi averne un po' di più, certo, rush finale. No, ma poi anche, insomma, vivi una situazione un po' più allenante rispetto a quella che aveva Guardiola quando, con la neve ancora per terra, il Bayern festeggiava. E anche questo, hai ragione, è sicuramente un fattore, perché quando si andavano a giocare le semifinali di Champions, quelli del Bayern, semifinali che si giocano diciamo a inizio maggio più o meno, erano un po' già disabituati alla contesa. Sì, sì. Che quell'anno l'anno che hanno vinto il 25 marzo, se non sbaglio, sì, no? Sì. Esatto. Quindi è vero, il famoso concetto sul campionato poco allenante, no? La famosa battuta di Capello che fece arrabbiare Conte, ma insomma ci sta secondo me il ragionamento, nel senso che avere degli stimoli interni, domestici del campionato, che ti tengono sulla corda e che ti fanno arrivare caldo e carico, senza ovviamente dissanguarti, senza ovviamente stancarti troppo, però insomma il giusto mezzo ci vuole, e invece il Bayern, insomma, in Germania ha sempre vinto negli ultimi anni perché è più forte di tutti, un po' come il Paris Saint-Germain in Francia, e arriva a giocarsi le partite decisive con un livello probabilmente di disabitudine a quel tipo di avversario e di stress agonistico. Quindi, senti Gentile, punto molto sulla cena di sabato sera, punto molto, grande frico, viene a Udine Gentile. Perché non anche sul pranzo? È perché io vengo in macchina, devo partire, però non posso partire all'alba. C'ho una moglie, voglio dire, la situazione non è che posso andarmi alle 9 di mattina. Ti devi saper dividere, però qualcosa mi lascia pensare che pranzerai ugualmente. Pranzerai. Magari non a Udine, ma vedremo. Ciao Riccardo. Finirò per sentire la radio Manchester Arsenal alla radio inglese, una scena di una tristezza. L'anno scorso Arsenal Leicester col gol all'ultimo minuto. Che fai? Che saluti? E Igli da Forlino lo vogliamo salutare, De Luca. Ma che mancanza di rispetto che tiene per Igli. Scusa Igli, perdonalo De Luca, faceva salutate. Sì, sentite, per me il derby più emozionante è Virtus Fortitudo. Ma quello che ci sarà, tra l'altro, quello del tiro da 4? Il 25 dicembre. Sì, è vero. Scusa un attimo, ma però da che parte? Io sono fortitudino. Ah, tu sei fortitudino, quindi aver detto quella cosa di Danilovic ti ha... quindi l'ha raggelato, il famoso tiro da 4 di Danilovic. Guardate che placebo si pronuncia placebo con C ed E, e non placebo perché non è inglese ma latino. Sì, però la band è Brian Molko, è nato in Olanda ed è inglese di estrazione musicale, per cui però certo placebo, effetto placebo, ci mancherebbe altro. Ricordiamoci, perché io per i tempi veniva Juventus Stadium, per esempio, ed è una cosa sulla quale invece bisogna pensarci, no? Che è Juventus Stadium. No, infatti, perché... ricevo parecchie bacchettate quando mi scappa Stadium. Lo so, ragazzi. Allora, dura. L'Aquila Ciao. Vezzano, c'è domenica. Purtroppo Ciao. In Serie D. Un bacio agli amici dell'Aquila di Avezzano. Ciao, Sassari, Torre, Scagliari. Ci scrive Paride. Non me ne voglio andare oggi perché De Luca. Voglio, facciamo una cosa. Aspettiamo che De Luca venga qua. Vediamo, non me ne vado se De Luca non entra, perché lo devo salutare. Marco Ferronato in regia, mi si è falsato in redazione. È entrato De Luca. Dai, vieni qua. Se c'hai il coraggio, chiudilo tu il programma. Che si stava tanto bene. A domani. A domani. Il Falco e il Gabbiano. Ci vediamo domani. Enjoy.